Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Tra gli argomenti di oggi, l'andamento del mercato dei veicoli industriali e commerciali che consolida la tendenza positiva, l'aumento del traffico di mezzi pesanti rilevato a maggio sulla rete ANAS, quindi un salto al Brennero, questa volta per focalizzare l'andamento dei lavori del tunnel ferroviario e quindi spazio all'iniziativa di Assotir a sostegno delle imprese di autotrasporto. Ma in apertura la notizia più attesa dal mondo dell'autotrasporto, e cioè l'innalzamento da 60 a 70 milioni delle risorse destinate alla deduzione forfettaria delle spese non documentate sostenute dalle imprese nel corso del 2015. Nei prossimi giorni il Ministero dell'Economia fornirà all'Agenzia delle Entrate le indicazioni alla luce del nuovo ammontare dello stanziamento. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha firmato anche il decreto ministeriale per l'attuazione delle misure in favore della formazione professionale. Positive le reazioni del mondo delle associazioni dell'autotrasporto. Secondo Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti, si tratta di un passo importante ma non di un punto di arrivo sul tappeto. Dice: restano alcune questioni irrisolte, in particolare la decontribuzione per i servizi internazionali e i provvedimenti sugli incentivi per il trasporto intermodale. Per il momento Unatras ha confermato il fermo, le modalità saranno decise il 22 giugno. Tra i punti più delicati resta quello del cabotaggio abusivo e quindi del dumping sociale, una piaga che devasta il libero mercato dell'autotrasporto. E su questo fronte le notizie che arrivano da Bruxelles non sono positive. Nella riunione dei 28 ministri dei trasporti europei si è infatti delineata in maniera piuttosto netta la contrapposizione tra i paesi che hanno adottato misure di contrasto al fenomeno, come Germania e Francia, e quelli che giudicano questi provvedimenti contrari ai principi comunitari. Il commissario ai trasporti Violetta Bulc ha assicurato il massimo impegno per trovare soluzioni il più possibile condivisibili. E ora il punto sull'andamento del mercato dei veicoli commerciali e dei mezzi pesanti, un indicatore significativo per misurare i segnali di ripresa, seppur altalenanti, che arrivano dal mondo dell'autotrasporto. A Torino abbiamo intervistato Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. Allora, veicoli commerciali, una crescita ormai costante mi sembra da 16 mesi, veicoli industriali, un mercato che si sta riprendendo, non diciamo così con questo trend storico, però con segnali altrettanto incoraggianti. Sì, direi che i primi mesi dell'anno hanno visto una crescita positiva per gli autocarri e anche per i rimorchi e semirimorchi, siamo intorno al 30-35% per entrambe le categorie. Bisogna rimarcare il fatto che abbiamo però oggi un parco circolante vecchissimo, perché negli ultimi anni il mercato è sceso del 40-50%, per cui oggi abbiamo un parco circolante vecchio che necessita assolutamente di un rinnovamento, per cui noi stiamo puntando sicuramente su due driver. Da una parte, spingendo l'intermodalità, è importante creare un circolo virtuoso tra trasporto su strada, trasporto su rotaia e su mare, questo sicuramente è fondamentale. Dall'altra dobbiamo anche spingere verso un maggior utilizzo anche dei combustibili alternativi, che permettono chiaramente una riduzione delle emissioni di CO2 e una maggiore efficienza nei consumi, per cui stiamo puntando anche molto nella diffusione di, per esempio, tecnologia a metano liquido per gli autocarri, che vediamo come una delle tecnologie sicuramente più interessanti per il prossimo futuro. Anche se la strada è un po' lunga sotto questo profilo. Sì, c'è da lavorare molto e lo stiamo facendo. È un problema di distribuzione. Anche a livello istituzionale stiamo cercando di... abbiamo costruito un piano anche di infrastrutture che stiamo condividendo con l'istituzione per implementare la direttiva DAFI, che comunque impone agli Stati membri anche di strutturarsi in maniera, diciamo, forte e completa anche con una rete di infrastrutture per il metano, per il GPL, per l'elettrico, per cui sicuramente il primo passaggio è creare le infrastrutture e poi dopo chiaramente si può anche lavorare per una diffusione maggiore di veicoli ad alimentazione alternativa. Noi siamo per un approccio neutrale da un punto di vista tecnologico, non privilegiamo una tecnologia piuttosto che un'altra, ma siamo chiaramente aperti per tutte le tecnologie che in qualche modo hanno a che vedere con la mobilità sostenibile, per cui elettrico, ibrido, metano, GPL. Altri numeri, altri segnali incoraggianti arrivano dal flusso di mezzi pesanti e non solo sulla rete di ANAS. A maggio il periodico aggiornamento dell'indice di mobilità rilevata ha fatto registrare dati tutti con il segno più. Ce li aggiorna Ilaria Coppa, dirigente di ANAS. L'osservatorio del traffico del mese di maggio registrato da ANAS rileva sulla rete un significativo incremento del traffico pesante che si attesta rispetto ad aprile del 2016 intorno al 6% e quindi diciamo un numero assolutamente significativo. Interessanti sono soprattutto i dati che abbiamo registrato nelle isole, in particolar modo in Sardegna, dove abbiamo avuto un incremento del traffico pesante del 13%, e analogamente in Sicilia, dove addirittura abbiamo appunto un aumento del traffico rispetto al 2015 del 9%. Con un picco del 22% in particolare sul traffico pesante. È ovvio che questo dato è anche correlato alla riapertura della corsia in direzione Palermo dell'autostrada Palermo-Catania. Diciamo che se dai nostri rilevatori di traffico levassimo il traffico conteggiato sull'autostrada Palermo-Catania sulla A19, comunque sia ci sarebbe un significativo incremento, sempre anche in Sicilia, intorno al 12%. Per quanto riguarda l'andamento in generale del traffico su tutta la rete, di nuovo si registra un incremento significativo, perché la media è, rispetto ad aprile 2016 è del circa del 4%. È un dato confortante dal momento che lo scorso anno l'incremento rilevato nel maggio 2015 rispetto all'aprile 2015 era stato solo dello 0,3%. E sempre a proposito di ANAS, illustrando il piano industriale 2016-2020, che prevede tra l'altro investimenti di 3 miliardi l'anno destinati soprattutto alla manutenzione, il presidente Gianni Vittorio Armani ha sottolineato che il traffico sulla rete autostradale è in diminuzione per la concorrenza di aereo e treno, mentre aumentano le percorrenze medio-brevi. E ora risaliamo al Brennero, dove sta prendendo forma la galleria di base del Valico, che diventerà il tunnel ferroviario più lungo al mondo, 64 chilometri contro i 57 del Gottardo, inaugurato 2 settimane fa. Raffaele Zurlo, amministratore di BBT, la società italo-austriaca che sta realizzando la galleria, assicura che entro il 2016, cioè tra 10 anni, sarà pronta. Ascoltiamolo. Io sono fiducioso che realmente nel 2026 si possa mettere in opera questa importante infrastruttura. Ad oggi lo stato di avanzamento che abbiamo consuntivato e le previsioni che abbiamo, che di anno in anno aggiorniamo, tenendo conto di quanto già consuntiviamo, ci portano a confermare questa data nella quale io credo fermamente. Le opere infrastrutturali si stanno realizzando, l'Austria le ha già in parte realizzate, in buona parte realizzate, l'Italia si sta attrezzando, sta progettando le opere infrastrutturali necessarie per dare continuità alla galleria di base, per dare accesso alla galleria di base del Brennero, e quindi mi sembra che di poter dire che da parte dei governi transfrontalieri ci sia il massimo impegno e la massima copertura finanziaria per poter consentire la realizzazione di queste opere. Capitani Coraggiosi è l'iniziativa organizzata da Assotir, una delle associazioni che fanno parte dell'albo degli autotrasportatori. Si propone di fornire alle imprese del settore strumenti conoscitivi ed operativi per destreggiarsi in un mercato sempre più complesso e competitivo. Già si sono svolti 2 incontri a Roma, nei prossimi mesi ne seguiranno altri sul territorio. Di Capitani Coraggiosi al nostro microfono parla Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Con questo titolo abbiamo voluto inaugurare una serie di iniziative rivolte ai giovani imprenditori dell'autotrasporto, che come tali non possono che essere coraggiosi, considerando il mare in tempesta nel quale sono costretti a navigare. E quindi il titolo è sembrato emblematico. Questo è una sorta di percorso a metà tra informazione, formazione, discussione e quant'altro, che si sviluppa attorno al tentativo di dare una risposta alla seguente domanda che l'imprenditore deve porsi, è quella di dire: che cosa io posso fare nella situazione data per avere e per dare un futuro alla mia impresa, a prescindere da quello che avviene sia a livello politico sia a livello, diciamo, delle iniziative che possono fare o meno le associazioni di rappresentanza. Ma io come imprenditore, considerando i cambiamenti che sono avvenuti, che stanno avvenendo, per dare un futuro alla mia impresa di autotrasporto, che cosa posso fare e che cosa devo fare? Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.